Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La lettura rende un uomo completo. La conversazione lo rende agile di spirito. La scrittura lo rende esatto. Francis Bacon. Ci aiuta a pensare, a mettere ordine, a comunicare, a vederci più chiaro, a ricordare. Ci fa viaggiare e ci aiuta a fermarci, allena la mente, dà voce al cuore. Basta prendere carta e penna, aprire un computer. Tutti possiamo farlo. Scrivere può diventare un integratore per il nostro essere e per il nostro benessere. Che dite? Ci proviamo? Potete scrivermelo al 349-238-6666. Oppure su Facebook, via mail, ma potete seguirci come sempre su Twitter. Il nostro hashtag di oggi è scrivo quello che sono. Scrivete, descrivetevi, osservatevi, presentatevi, insomma giocate con le parole. Qua in studio con me la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie. E il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore e psicoanalista freudiano. Due vecchie conoscenze di essere e benessere, diciamo così. Beh, vecchie perché veniamo qua. Sì, per questo sì. Allora, scrivo quello che sono, un esercizio che ci fa proprio toccare con mano il potere della scrittura. È il nostro hashtag di oggi, invitiamo quindi i nostri ascoltatori a seguirci su Twitter. Dottor Ballerini. Ma la scrittura è un'esperienza bellissima ed è un'esperienza che non è riservata solamente a quelli che sono considerati gli scrittori. Ad esempio, noi siamo scrittori, ma si scrive, tutti scrivono. Allora abbiamo diverse occasioni di scrittura per tutti, sia che narriamo storie per altri, sia che invece scriviamo qualche cosa per noi. Io credo che il valore principale sia quello di mettere su un foglio di carta o su un foglio elettronico i nostri pensieri. Il fatto che poi dopo noi li possiamo riguardare e li possiamo riconsiderare ci permette un po' quella distanza che ci aiuta a giudicarli, per cui magari possiamo dire guarda come mi ero arrabbiato per niente, oppure avevo proprio ragione ad arrabbiarmi così. Dottoressa Luini, io vorrei tornare con lei sull'hashtag di oggi, scrivo quello che sono, in 140 caratteri provare a descriversi, è una chance che ci dà la scrittura. È una grande opportunità e anche i 140 caratteri sono un'opportunità, perché dire quello che sono e cercare di sintetizzare significa cercare l'essenza, quindi eliminare i fronzoli e andare al cuore di ciò che siamo, quindi è un esperimento interessante. Naturalmente vogliamo parlare anche con voi, 800 24 00 24, se vi piace scrivere, se davanti invece ad un foglio bianco fuggite, se amate usare la matita, la penna, se digitate solamente ed esclusivamente sul vostro computer, noi siamo qui, 800 24 00 24. Raccontateci anche se avete un libro nel cassetto, un sogno, perché parleremo anche di sogni. Scriviamo per viaggiare senza più tornare, per ritrovare la strada di casa e svuotarla di ogni ricordo di noi. Scriviamo per dar vita e dimora fittizia a personaggi inesistenti, più somiglianti alla realtà che a un inganno. Per tutto questo e molto altro ancora, amiamo o odiamo scrivere. Senza saperlo, cercando di scoprirlo ancora e ancora scrivendo, credendo di saperlo, non volendo affatto saperlo, né scrivere. Così scrive Duccio Demetrio nel suo libro Perché amiamo scrivere, filosofie e miti di una passione. E forse molti di noi stanno coltivando questa passione, magari in segreto, alcuni staranno accarezzando l'idea, ma molti anche staranno scuotendo la testa dicendo mi piacerebbe ma non ne sono capace. Ma non è necessario, come diceva il dottor Ballerini, diventare scrittori, è importante scrivere, può esserci molto utile. Uno studio dell'Università di Chicago ha confermato quello che grafomani di tutto il mondo in parte già sperimentano. Se stress e paure affollano la mente, un trucco per tenerle a bada è quello di metterle nero su bianco. Gli psicologi americani, guidati da Sian Baylock, hanno condotto un esperimento con 20 studenti, invitati a scrivere per 10 minuti ciò che in quel momento li impensieriva di più. Dai risultati pubblicati su Science emerge chiaramente che la scrittura come valvola di sfogo dell'ansia funziona, aumentando le prestazioni del cervello. Allora, dottoressa Luini, non ci resta che scrivere, il cervello ringrazia e sì, tutto sì. Diventa più chiaro. Sì, diventa più chiaro perché lo leggiamo e in un certo senso prendiamo le distanze. In un certo senso, in un altro senso, facciamo ordine. Quindi scrivere è un modo per dire a noi stessi, prima che agli altri, ciò che temiamo, ciò che ci angoscia. E in fondo diamo un nome a quell'ansia, se di ansia si tratta, che ci fa paura perché è sconosciuta. Nel momento in cui sappiamo scriverla, non è più tanto sconosciuta. È un meccanismo noto, per esempio, nell'ambito medico. All'Istituto Europeo di Oncologia abbiamo tante persone che dopo la malattia o durante la malattia scrivono. E lo fanno un po' perché vogliono condividere, ma anche perché vogliono dominare il senso di trauma, di dramma. Un consiglio che do di solito è: ok, prendi, scrivi e racconta se vuoi la tua ansia, la tua paura, il tuo trauma. Quando sei capace di inventare altro, quando il tuo racconto diventa la fiaba, quando c'è l'astrazione, sei arrivato addirittura oltre il trauma. Dottor Ballerini, quindi un percorso, quello che suggerisce la dottoressa Luini, ma noi siamo più portati, vorrei una riflessione da parte sua, a scrivere qualche cosa che ci rattrista, ci fa soffrire, e magari siamo meno portati a fermare su un foglio o magari a mandare una mail o un messaggio ad un amico per dire quanto sono felice. Insomma, le emozioni in qualche modo liberano o frenano la nostra voglia di scrivere? Ma intanto che sentivo questa domanda mi veniva da obiettare immediatamente, non è così. Poi ho pensato, i giovani, no? Quando uno è giovane, quando uno è un ragazzo, una ragazza, scrive anche le emozioni positive, anzi, magari li mette giù con tanti punti esclamativi, mette gli wow, sì. Quindi in qualche modo è una scrittura che diventa gergale, ma c'è anche tutta l'emozione e l'affetto positivo. Effettivamente poi mi viene da dire, può darsi che poi passando il tempo è più facile che ci mettiamo a scrivere quello che non va. Il suggerimento che può arrivare oggi invece è che mi è piaciuto molto, è stato detto che scrivere aiuta a fare ordine, credo che sia proprio così, aiuta a fare ordine, aiuta a ricordare, a giudicare, ma pensiamo ai sogni, no? Come vanno via, se invece ce li annotiamo, proprio il concetto di annotare è un prendere nota, quel qualcosa che non capisco io lo annoto, chissà, poi ci ripenso, lo vado a rivedere, magari mi verranno delle associazioni, è un modo per non perdere, è un modo per conservare e curare in qualche modo, che è proprio prendersi cura anche di quel pensiero che è il sogno. A proposito di sogno, volevamo oggi suggerire ai nostri ascoltatori occasioni per incontrare la scrittura. E il sogno è un'ottima occasione. Abbiamo dedicato delle puntate in cui lei ha partecipato proprio per raccontare questa magia del sogno, e uno dei suggerimenti che ritornano e che gli psicoanalisti danno è quello proprio di fermare il sogno al mattino su un taccuino. Questo è un esercizio che ci può fare bene? Allora, è un esercizio buono. Sul sogno non dobbiamo avere mi piace. Non dobbiamo avere la preoccupazione di ricordare tutto. No, spesso ci sembra che un sogno ci sfugga in qualche modo, ne ricordiamo solo dei frammenti. Non dobbiamo farci prendere troppo dall'angoscia di questo. Sì. Quello che ricordiamo basta. Ma sappiamo anche che quel frammento che è fresco al mattino, poi di fatto durante la giornata poi si diluisce e lo perdiamo completamente. È un'ottima occasione mettere giù i propri sogni, anche perché poi magari per uno scrittore, quello scrittore che decide di raccontare delle storie, possono essere anche degli ottimi spunti e occasioni di partenza. Siete tutte e due medici, tutte e due scrittori. Ci sono tanti medici che scrivono, Sì. Avete sbagliato professione o è la professione medica che vi fa diventare scrittori? Forse dipende, va da caso a caso. Io attualmente sono più scrittore che medico, anche se medico è un essere, quindi sei medico, non fai il medico, ti occupi delle persone, ti occupi degli altri anche scrivendo. Io credo che la scrittura sia una reazione abbastanza normale. Poi nella professione medica ci sono tanti creativi, a parte che credo che tutti siamo creativi, però in medicina ci sono tanti creativi che forse reagiscono anche a ciò che vedono appunto creando. Questa incidenza alta di scrittura, scrittura professionale, perché poi c'è scrittura professionale oppure no, nell'ambito medico secondo me non è casuale. Non so cosa ne pensi il collega. No, non credo sia casuale. E credo che ci sia tra l'altro un valore aggiunto, per un, lo so che poi qualcuno adesso magari poi protesterà, ma c'è un valore aggiunto nel fatto che uno scrittore faccia un altro lavoro. Io credo che il valore aggiunto è il valore della vita, perché la possibilità di una professione che è diversa dalla scrittura offre così tanti spunti, così tante occasioni, così tante storie che ci vengono incontro, che poi trovo che la scrittura sia facilitata da questo. A me viene in mente per esempio Iannacci, che era un grande creativo. Una delle cose più meravigliose della mia vita è quando qualcuno mi ha detto: ah, perché sei anche medico? Beh, ma tu sei medico come Iannacci. È stato un momento meraviglioso. Avete preso mai ispirazione per i vostri libri e dei vostri sogni? E lo chiedo anche agli ascoltatori, ricordando l'hashtag di oggi: scrivo quel che sono, 140 caratteri per descrivere, scriveteveli, scriveteci. Dottor Ballerini, lei si è fatto ispirare da un sogno? Non storie complete, ma situazioni e occasioni che sono accadute dei personaggi hanno, in qualche caso sono arrivate da un'esperienza onirica. Sì, sì, spesso mi è capitato. Nel libro ultimo uscito avevo messo proprio un mio sogno e Cairo l'ha tolto perché era un sogno premonitore, poi temevano che mi prendessero per pazza. Parleremo tra poco di questo libro, ma andiamo a sentire Roberta che ci chiama da Milano. Buongiorno, benvenuta, 800 24 00 24, scrittori e non scrittori, chiamateci. Roberta. Buongiorno, innanzitutto complimenti per i suoi argomenti sempre molto interessanti. Roberta, la bacio. Grazie. Allora, niente, praticamente io ho cominciato a scrivere un diario da quando è nato il mio bambino, bambino all'epoca perché adesso ha 22 anni, e io ho continuato da allora a scrivere periodicamente tutto quello che succedeva prima, in primis a lui, e poi dopo man mano comunque quello che capitava nella vita familiare, i sentimenti, le emozioni, appunto come dicono i suoi ospiti. È veramente un bisogno che sento dopo un periodo. Ma lo fa leggere anche il suo bambino 23enne? Ma oppure... io sì, gli racconto, guarda, più che altro le cose di quando era piccolo, però lui sì, insomma, lo sa, mi vede che scrivo, oramai lui è abituato a questa cosa qui, però non... Questo è un bellissimo regalo, ma mi piacerebbe anche insieme al dottor Ballerini dare delle indicazioni a Roberta, perché sicuramente in questi 23 anni di scrittura la sua scrittura è cambiata ed è un esercizio che possiamo fare, se magari teniamo un taccuino, un diario, andare a ripescare magari diari di, non necessariamente quando eravamo ragazzini, ma di qualche anno, perché dal modo in cui scriviamo e cambia la nostra scrittura possiamo raccogliere delle informazioni su di noi. Insomma, le parole parlano. Le parole parlano e le parole contano. Mi veniva da pensare che questa mamma ha regalato al giovane uomo qualcosa di speciale, perché di solito abbiamo l'album di fotografie. E questo è un album speciale, è un album di parole, e probabilmente queste parole potranno essere anche molto più efficaci di certe fotografie nel narrare ciò che è accaduto, perché c'è tutto il pensiero di questa donna e tutto il suo affetto dentro, e è qualcosa davvero di speciale. Ma io sono anche lettrice, mi risulta che Luigi Ballerini abbia scritto un libro proprio che ha molto a che fare con questo, è un taccuino, vero? Sì, sì, che sì. Che tra sì. l'altro finalista al Bancarellino. Sì, è Non chiamarmi Cina, che è uscito per Giunti, ed è proprio così, è un... quello che colpisce quando incontro i lettori è che si stupiscono e dicono: finalmente un ragazzo protagonista, perché poi diciamolo, noi che scriviamo per i giovani tendiamo a scrivere per delle lettrici. Il fatto che ci sia un io narrante maschio di 17 anni che racconta la sua storia d'amore e la ferma su un taccuino è un qualcosa che da una parte stupisce, ma dall'altra vedo che genera anche un'inaspettata identificazione, per cui è stato strepitoso l'avere incontrato a Bologna in libreria, due classi di seconda superiore solo maschi di un istituto professionale, quindi non il classico lettore forte, che sono arrivati con il libro in mano dicendo: mi è proprio piaciuto. Laura ci chiama da Pistoia, buongiorno. Pronto, mi sente? Certo, forte e chiaro. Oh, Buongiorno e benvenuta, Laura. Grazie. Ho sentito appena la trasmissione. La cosa curiosa è che ieri sera io ho preso la decisione di scrivere non semplicemente una lettera, ma una specie proprio di racconto a mio figlio, che è lontano e che non vedo da 2 anni e mezzo, e che ha interrotto i rapporti con noi per una sua ricerca personale, sì, di felicità e di libertà e di autonomia. E io ieri sera ho preso la decisione di ho scritto qualche volta qualche lettera, questo per, sì, mail chiaramente, però ieri sera mi sono decisa che devo scrivere, perché ho una certa capacità nella scrittura, e come ho sentito dire prima, scrivere per me vuol dire riuscire a mettere nero su bianco le emozioni, i miei sentimenti, e quindi chiarire in me le idee, e in un altro modo anche veramente liberare l'ansia. Certo. E spiegare meglio, riuscire a... Pronto? Sì, no, la stiamo sentendo, perché nel suo racconto c'è tutto questo desiderio della mamma di riavvicinarsi e di capire. Laura? Pronto? Sì, noi ci siamo, Laura. Vuole concludere il suo intervento? Pronto? Laura, la richiamiamo, ma dottor Ballerini, si sentiva male... sembra una combinazione, un'idea appena accarezzata, e poi il giorno dopo quasi la trasmissione che ti invita a realizzare questo tuo progetto, no? Quasi per dirti va bene, vai avanti, no? Se posso un suggerimento, Laura, noi che scriviamo sappiamo che, ma anche noi che parliamo, quindi tutti, sappiamo che le parole hanno un effetto, e hanno un effetto sugli altri. E allora dobbiamo sceglierle bene. E siccome dal suo tono di voce ho colto una grande implicazione affettiva in questo, un grande moto che l'ha spinta a questo, il mio suggerimento è di rileggere, riscrivere 2, 3 o 4 volte prima di mandare quello che ha scritto. Non mandi la prima stesura, come uno scrittore non si permetterebbe mai di mandare una prima scrittura a un editore. Da quando i miei figli sanno leggere, ho scritto loro una lettera ogni Natale e ogni momento importante, il diploma, la laurea, la partenza per l'Erasmus, il primo giorno di lavoro, scrivendo tutto quello che non avevo detto a voce. Dottoressa Luini, sì, è quello che, sì, riusciamo a fare. Ci dà voce la scrittura, è un altro canale per dire ciò che normalmente non riusciamo a dire. Succede in tanti contesti, succede col dolore, succede anche con l'amore e la gioia, però non sempre dobbiamo parlare di dolore. E così presi una grande decisione. Decisi di riprendere in mano la mia vita e cominciare un diario in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones. Nient'altro che la verità. Decisione numero 1. Ovviamente perdere 10 chili. E arriviamo qui al diario, un appuntamento quotidiano che secondo molti psicologi procura numerosi vantaggi, migliora l'umore, lo stato psicofisico generale. Ci sentiamo allora di consigliare, dottor Ballerini, dottoressa Luini, e i nostri ascoltatori di sperimentarsi in questa forma di scrittura? Assolutamente, è una forma di scrittura. Diamo qualche indicazione, ad esempio, sì, c'è un rito, una situazione adatta per scrivere di sé? Scegliere il quaderno, può essere anche un foglio volante, ma deve essere qualcosa che senti tuo, e scegliere il momento. Che non significa scegliere per esempio il silenzio. Io prediligo il silenzio, ma ci può essere qualcuno che predilige la musica oppure il caos di un bar. Scegliere qualcosa che ti faccia sentire in te stesso. In quel momento tu esisti, quindi scrivi. Dottor Ballerini, io sono diventato... Io non vorrei lo scrittore, vorrei la sua esperienza da psicoanalista. Rispetto al diario? Sì, e al modo anche in cui ci si avvicina alla scrittura di un diario, o anche alla verità che si racconta nel diario o che si maschera, al desiderio di tenerlo segreto oppure di lasciarlo in dei posti strategici, quasi a tentare l'altro di dare una sbirciata dentro. Dottor Ballerini. Ci vuole del coraggio per fare un diario. Il coraggio deriva dal non avere paura dei propri pensieri, A volte noi abbiamo dei pensieri che ci spaventano, no? Qualche volta i genitori non sono stati bravi quando ci hanno detto certe cose non sono neanche da pensare, perché la libertà del pensiero fa sì che si possa pensare di tutto. Il passo che poi noi facciamo lo pensiamo e poi lo giudichiamo. Allora, scrivere un diario vuol dire non avere paura dei propri pensieri, non avere paura dei propri affetti, avere il coraggio di metterlo giù. E poi, come abbiamo già detto, la rilettura mi permette il giudizio e mi permette anche di dire avevo ragione, avevo torto, ho fatto bene a pensare così, oppure guarda che sciocco che sono stato. Per cui c'è un grossissimo valore. E insomma, nel diario possiamo dire scriviamo quello che siamo. Scrivo quello che sono è l'hashtag di oggi, 140 caratteri, un esercizio di sintesi e anche di gerarchia, due competenze che stiamo sviluppando proprio supportati o costretti dalla tecnologia. Di questo parleremo tra poco, dopo i mercati e il meteo, insieme alla professoressa Francesca Dragotto. Ciao Francesca. Buongiorno. Ricercatore nel settore glottologia e linguistica all'Università di Roma Tor Vergata. Essere e benessere. Io sono vivo ma non vivo perché respiro. Mi sento vivo solo se sfilo la stiro e scrivo. Quando sono nato non capivo ed ora che continuo. E noi continuiamo a scrivere nell'era di internet. Il diario intimo di cui parlavamo può essere sostituito dal blog e ad avere, dottoressa Luini, un effetto duplice. Brava. Perché è un effetto positivo, perché scrivere, comunicare e vedere che qualcuno ci segue è molto positivo. È pericolosissimo perché poi si tende a saltare di là, si raccontano cose intime e non ci si rende conto dell'impatto. Spesso non si conoscono le conseguenze. Ci sono però dei blog che sono nati proprio tra i malati per aiutare la loro esperienza. Questo sì, e sì, hanno sono aiutato proprio a fare rete. Sì. Ce ne sono tanti, creano rete. Io amministro la pagina Facebook dello IEO e devo dire che tutti i giorni abbiamo messaggi di ogni genere. Cerco di essere attenta nello spiegare che condividere è meraviglioso, ma alcune condivisioni troppo personali andrebbero fatte su una rete più ristretta oppure in privato. Dottor Ballerini. Ma quando porto in giro il libro e i ragazzi mi dicono ma questo è un diario, e io dico ma voi ce l'avete un diario? Spessissimo mi dicono abbiamo Facebook. E allora dico ma voi siete proprio sicuri che Facebook sia un diario? Io credo che non sia un diario. L'inganno di Facebook, nel quale io ci sono, mi piace, certo, ci sto bene, ma l'inganno di Facebook è di farlo sembrare un diario, ma è molto pubblico. Per cui è appena stato detto, ci deve essere un caveat, dobbiamo fare attenzione che ciò che noi scriveremo in un diario, quindi personale, che conserviamo e che facciamo leggere a pochissimi, ciò che va in bacheca lo leggono quantomeno tutti i miei contatti e forse anche qualcuno di più. E allora d'accordo, cessa di essere un diario, è una effettiva forma di comunicazione, come se io in una piazza gridassi a quelle 300-400 persone che sono lì un mio pensiero, devo sapere che lo sto dicendo a 300 persone. Sì. Ci ha ascoltato in silenzio Francesca Dragotto. Francesca, sì. Noi stiamo proponendo l'hashtag di oggi è invitare appunto i nostri ascoltatori a fare un grande lavoro di sintesi e gerarchia, no? Scrivo quel che sono, descriversi in 140 caratteri è una cosa abbastanza difficile. Che cosa ci aggiunge, cosa toglie l'uso della tecnologia al nostro modo di sentire e anche di comunicare? Domanda a cui con un tweet sarebbe davvero difficile rispondere. Di sicuro tradurre i propri pensieri in un tweet significa dover aver chiaro cosa è più importante, cosa è meno importante e cosa non è importante. Quindi il tweet in qualche modo ci spinge ancor più che altri mezzi tipici delle nuove tecnologie a una gerarchia stringente di contenuti. Quindi in questo senso c'è anche un potere di allenamento forte sotteso a questi mezzi, no? Perché ci obbliga di fronte ad un testo articolato, ricco di aggettivi, ricco di tante informazioni, a scegliere su cosa concentrarsi. Sì. Dall'altra parte però ovviamente perdiamo quello che invece solitamente la scrittura, almeno certi tipi di scrittura, sono soliti darci, che è la possibilità di descrivere un mondo con tanti colori, quindi proprio quegli stessi aggettivi che siamo costretti ad eliminare, ma che sono poi la fonte del modo diverso in cui ciascuno di noi vede una stessa realtà. Ti voglio leggere alcuni tweet che sono arrivati dai nostri ascoltatori. Simonetta, donna, amo quindi sono, vivo e sogno, adoro i colori, ma oggi vedo solo pioggia e nuvole, ma domani, scommetto, ci sarà il sol. Non male, è riuscita a concentrare moltissima informazione su di sé all'interno di pochi caratteri. Potremmo anche analizzare la successione degli aggettivi, alcuni più logori, ma non perché sia logoro il contenuto di questi aggettivi, ma perché si tratta di formule abbastanza abusate, altri che invece tendono magari a esprimere meglio quella che è la personalità di Simone o Simonetta, adesso non ricordo. Simonetta. Però ecco, dietro mi unisco a quello che è stato già detto, dietro a ogni parola c'è una scelta che non è fatta soltanto di capacità di saper selezionare all'interno delle nostre risorse, delle nostre conoscenze linguistiche, la cosa che ci sembra più adatta, ma è frutto del fatto che ogni parola che conosciamo riflette un'esperienza, l'esperienza con cui abbiamo conosciuto quella parola è un'esperienza che via via si è modificata nel corso della vita, quindi in realtà anche quando ci sembra di usare la stessa parola che abbiamo usato il giorno prima, un mese prima, un anno prima, non usiamo esattamente la stessa parola, perché ogni volta che siamo segnati da un'esperienza che associamo a quella parola è come se in qualche modo ne andassimo a modificare il significato, di poco, ma come se lo andassimo a modificare. Grazie a Francesca Dragotto per essere stata con noi. Buonissima Grazie. Giornata Francesca. Anche a voi, a presto. A proposito di tasti e di penna, c'è un ascoltatore che mi scrive: parrebbe che la DOT, che sì, è lei, quando parla di scegliere la penna e il foglio ed il momento, abbia letto il libro di Eran Katz. Lo condivido a pieno. Bene, sì, sono L'ha contenta. L'ha letto il libro, perché chi scrive legge. Tantissimo, tantissimo. Prima di scrivere leggo, sono nata lettrice in realtà. Sì, sì, la scelta dello strumento, che poi non è più lo strumento, diventa il centro della tua scrittura. Io scrivo con la Bic blu, punta grossa, e poi trascrivo a computer, e sì, quindi anche nel suo ultimo sì, romanzo Il male dentro ha fatto questo lavoro di trascrizione. Il male dentro, che adesso ha 264 pagine nell'edizione uscita con Cairo, era addirittura più grande perché aveva circa 360 pagine, l'avevo scritto tutto prima con la Bic. Il problema poi è leggere la mia grafia e trascrivere a computer, però è un buon esercizio per rileggere ciò che ho fatto. Sono d'accordo con Luigi Ballerini che dice che non si dà mai all'editore la prima stesura. La prima stesura a mano mi serve poi per rileggere e rifare a computer. Tra l'altro questo, noi parlavamo di si dice sempre la verità, no? nel diario. Io non sono d'accordo, tra l'altro. Nel suo ultimo libro lei racconta, no? un ambiente in cui lei quotidianamente si muove. Sì, perché è ambientato proprio in un centro oncologico. Sì, in realtà si tratta di un romanzo. Questo non è un paravento per dire guardate che ho inventato tutto. È chiaro che la vita ti porta eventi, quindi tu li elabori, e anche quando inventi porti ciò che hai visto. Cambi tutto, ma ti basi sulla realtà. In un centro oncologico c'è di tutto, principalmente c'è l'amore, c'è la speranza e ci sono storie. Ho voluto raccontare le relazioni. Sì, è un piccolo microcosmo. Poi ci fa un regalino a qualche nostro ascoltatore. Certo, come sempre, sì, perché sì, molto volentieri. Io quando gli scrittori arrivano li faccio pagare pegno. Tra l'altro lei parla e descrive Anna, che è un medico, proprio sì, come lei, che scrive libri. Sì. Quindi quando io vi chiedo agli scrittori, ma quanto c'è di autobiografico? Ma me l'hanno già chiesto. Molti su dicono: Facebook. Ma no, ma allora è cosa? Però poi c'è. Ma c'è. Disseminata un po' ovunque, ma mi hanno già chiesto se Anna sono io. Non so. Ma c'è tantissimo. E lei è quel ragazzino di 17 anni di Non chiamarmi Cina, che è stato anche uno scrittore di taccuini. Allora, c'è tantissimo di autobiografico, nel senso che potremmo mettere anche ciò che ci sarebbe piaciuto essere, magari certo, non siamo stati. Certo. Per cui in positivo e in negativo noi mettiamo sempre quello che siamo, ed è così, nel senso non c'è bisogno di scrivere un libro di ospedale per uno che lavora certo, in ospedale. In qualsiasi libro sono sicuro che è venuto fuori se stessa, gli incontri che abbiamo fatto, sicuro, poi li camuffiamo, li trasformiamo, sì, li rendiamo altro, ma... ma è la vita, ed è sempre la vita che viene fuori in un libro. Io dico anche ai ragazzi, se volete anche il fantasy più sfrenato, se uno vuol fare una lotta fra draghi deve sapere esattamente come una guerra fra gli uomini. Voglio leggervi qualche messaggio che è arrivato su Facebook. Preferirei parlare guardandosi negli occhi, ma quando non è possibile sarebbe meglio una lettera ad un SMS. La lettera assume un valore particolare e non passa mai. Questo ci scrive Imma. Lettera, SMS, entriamo nell'amore, perché anche un ascoltatore mi scrive che attraverso un SMS lunghissimo è riuscito a conquistare il suo amore. Ma quando noi dobbiamo dire ti voglio bene, oggi, e parlo anche non di ragazzini ma di persone adulte, mandiamo un SMS, mandiamo una mail, mandiamo una lettera, non potendo farlo al telefono o a voce? E poi TVB o ti voglio bene, abbreviato, ha un altro significato? È sempre una scrittura, è sempre una parola. Essere e benessere. Matteo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Lei forse ha chiamato per un'altra cosa, ma io volevo sapere da lei. Se lei dovesse scrivere alla sua fidanzata, sua moglie, ti voglio bene, non può telefonarle, che cosa sceglie? Ma guardi, io credo che in questo senso il formato e il mezzo davvero oggigiorno non abbia più tutta questa importanza. Io credo che siano i contenuti davvero quello che contano. Io poi per parte mia chiamavo perché sono docente di lettere e scrittore a mia volta. E quindi volevo portare quella che è la mia esperienza con i ragazzi. E la mia esperienza con i ragazzi è tale per cui condivido così tanto tutto quello che è stato detto nella vostra brillante conversazione in studio, che io da anni faccio un progetto nelle scuole, non solo con i miei studenti, ma anche con gli studenti di tutta Italia. È un progetto che si chiama Scuola Twain e che ha a che fare proprio con la promozione della lettura e della scrittura creativa nelle classi. Vi aderiscono decine e decine di scrittori autorevolissimi, i quali gratuitamente entrano nelle scuole attraverso dei coordinatori regionali che ci danno questa mano e aiutano i ragazzi a esprimersi e a migliorare, come dire, la propria conoscenza di sé attraverso la scrittura. Ci dia delle info, dove la troviamo, che così diamo subito delle indicazioni anche ai genitori all'ascolto? Assolutamente, www.scuolatwain.it. È un sito seguitissimo e tra l'altro le dico, abbiamo davvero scrittori illustrissimi ed è un movimento ormai sempre più diffuso ed efficace. Volevo anche dire, dicevate benissimo, la scrittura senza lettura è impossibile, questi ragazzi devono anche leggere. Io stesso, alcuni dei miei libri sono davvero adattissimi anche a loro e lo dimostrano anche i risultati. Ieri è uscito, volevo approfittarne perché ieri è uscito il mio nuovo romanzo Per Guanda. Facciamoci un po' di autopromozione. Matteo, ci racconti? Ci dica il titolo. Allora, il romanzo è La pelle dell'orso, edito da Guanda, editore. Grazie a Matteo. Ci regali un suo libro, ce lo mandi e noi lo regaleremo magari anche ad un ascoltatore dalla libreria di Essere Benessere. Ci sono cose che però non vanno scritte. Ci sono, ad esempio, situazioni in cui ci troviamo di fronte all'imbarazzo, ma questo lo scrivo o non lo scrivo? Una classica di queste situazioni quando dobbiamo scrivere un curriculum, dottor Ballerini, e lì diventa un po' scegliere le parole giuste, i titoli, lei annuisce, ma lei è capace a scrivere un curriculum, ma spesso mette in grande difficoltà chi deve farlo, soprattutto rifarlo. E sono capace di scrivere il curriculum? Sì e no, nel senso è più facile scrivere il curriculum di un altro, ma scrivere il proprio curriculum è sempre difficile. Allora noi proviamo a farlo insieme a Cristina Gianotti, che è in linea con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci deve spiegare tutto. Lei, che da diversi anni affianca manager e imprenditori nel loro sviluppo professionale, avendo anche lei una storia professionale come consulente di direzione e manager, proprio lei stessa. Certo. Allora, noi iniziamo. A che cosa si ci mettiamo davanti a un computer? Perché si scrive via mail, e comunque non si scrive a mano. Sì, direi che, diciamo, considerando l'Italia e, diciamo, la diffusione ormai, diciamo, degli strumenti, penso che ormai, diciamo, tutti lo scrivano con un computer o bene. Si facciano supportare da allora, una persona. Iniziamo proprio dai fondamenti: nome, cognome, cognome, nome, titoli. Come si fa? Allora, io inizierei con nome, cognome e non cognome, nome. Sì. E eviterei di utilizzare, diciamo, dei titoli proprio nell'intestazione, siano essi, diciamo, il dottore piuttosto che l'ingegnere, piuttosto che il nome di una certificazione. Quindi, diciamo, semplicemente nome e cognome. E poi non farei comparire, lo dico, diciamo, tra parentesi, altri nomi e cognomi di professori, referenze, capi, eccetera, nel resto del curriculum. Questo, diciamo, proprio per una questione di scrittura di tipo professionale. Che persona si usa? La prima persona, la terza, si fa impersonale? Allora, dal punto di vista della comunicazione, il consiglio è quello di utilizzare la prima persona, perché sì. Comunque la persona che ci legge viene coinvolta maggiormente se utilizziamo la prima persona. In alternativa, se uno non si sente perché lo trova, diciamo, distante dal proprio carattere, userei l'impersonale. Non userei la terza persona, nel senso che, diciamo, dal punto di vista della comunicazione non è consigliabile. Ma quanto deve essere lungo? Corto perché annoia, lungo perché così si vede che abbiamo fatto tanto, abbiamo tante cose da dire? Allora, una il via di mezzo. Ovviamente dice né troppo lungo né troppo corto, però, diciamo, poi bisogna dare un'indicazione. Allora, un'indicazione proprio, diciamo, concreta e pratica potrebbe essere quella di non superare le 2 pagine, anche se stiamo parlando di una persona intorno alla 40-50 di anni, quindi una persona che ha un excursus professionale, diciamo, consistente. Questo perché? Perché comunque, diciamo, il curriculum è uno strumento che deve scatenare nell'interlocutore la voglia di conoscerci e quindi devo essere, diciamo, sintetica a sufficienza, in modo che legga tutto quello che gli mando in un linguaggio comprensibile a una persona, diciamo, di cultura media, con diciamo, alcune indicazioni che possano interessare, diciamo, l'interlocutore, in modo che proprio, diciamo, a questo gli venga la voglia di mettersi in comunicazione con me. L'esperienza è tanta, il passato anche è bello sostanzioso, lo infilo tutto nel curriculum, cerco, insomma, di far capire tutto quello che ho fatto, quanto è grande la mia esperienza, oppure sto sul presente? Allora, l'idea è quella che effettivamente, diciamo, uno quando si racconta diciamo, è molto affezionato al passato. In realtà dobbiamo pensare che il curriculum ha uno scopo, che è quello di dire all'interlocutore cosa possiamo fare noi per lui, e quindi probabilmente è più importante quello che abbiamo fatto o che stiamo facendo, diciamo, attualmente, o che abbiamo fatto negli ultimi anni. Mentre se abbiamo, diciamo, una carriera, diciamo, abbastanza lineare, sì, con un senso, una coerenza, un fil rouge, non tralasciamo le esperienze precedenti, perché è bene non lasciare, diciamo, dei buchi nella propria esperienza professionale, però diamo meno importanza al passato e quindi, diciamo, è come se diciamo, allargassimo un imbuto o aprissimo la corolla di un fiore. Mi, diciamo, piace questa immagine. Volevo dire ai nostri ascoltatori che la dottoressa Gianotti ci ha preparato un testo che proprio per orientarci nella preparazione di un curriculum vitae, che noi metteremo sulla nostra pagina. Grazie dottoressa Gianotti, buona giornata. Grazie Nicolette, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Ma non finisce qua, dottor Ballerini, perché abbiamo pensato di lanciare una proposta ai nostri ascoltatori, perché ci piace continuare. Allora, l'idea è: mettiamoci a scrivere, anche e soprattutto chi non l'ha mai fatto, perché questa è un po', no, la sfida di oggi, sperimentare una cosa nuova. Poi magari se non ci piace la buttiamo lì, se invece ci accende magari qualche cosina, chissà mai. Allora, e quindi c'è un compitino. Sì, c'è una proposta. La proposta è di fare diciamo la parola grossa, un testo vincolato. Cosa vuol dire un testo vincolato? Vuol dire che ciascuno di voi ascoltatori è invitato a scrivere un testo massimo di 120 parole, quindi dobbiamo contare le parole. Se, però c'è il conteggio, no? Se uno cosa è si un mette Word strumento? C'è un conteggio automatico, ecco. Per cui c'è il contaparole, massimo 120 parole, ma l'incipit, ossia l'inizio di questo mini racconto, deve essere uguale per tutti. Posso dare l'inizio? Dai. L'inizio è: la primavera tardava ad arrivare, ma alla radio... Da qui in poi potete, io stesso lo farò, potete continuare come vi piace. Limite 120 parole, in 120 parole mettiamo tutta la storia più bella che ci viene in mente. Vediamo se ce la fa Andrea dalla provincia di Roma, può anche non farci, può anche dirmi di no Andrea, ma io volevo così darle un libro. Andrea, buongiorno. Buongiorno e complimenti a tutti gli intervenuti. Eh sì, sarò breve, così vado di corsa a scrivere le 120 parole, se ce la farò. Dovete mandarle, un attimo Andrea, meno male che l'ho sentita, sì. Dovete mandarla a esserebenessere@radio24.it, noi poi le giriamo ai nostri due, posso chiamarvi coach di scrittura, ma no, scrittori, esperti, quello che volete, e loro selezioneranno 3, vediamo, 3/5, sì. E poi noi le pubblicheremo sul nostro sito, sulla nostra pagina, e vi faremo avere dei libri di Essere Benessere. Mi scusi, l'ho interrotta 30 prego, secondi, prego. Vada lei. Prego, prego. Chiuda lei, anzi, questa puntata, 30 secondi. Era una testimonianza per dire che sono veramente contento di aver ascoltato tutta la trasmissione, perché io ho... 53 anni e sono più di 18 anni che mi tengo un diario quotidiano, e tutte le caratteristiche, tutti gli interventi che sono stati fatti li riscontro giornalmente, diciamo. Però ecco, l'appunto che devo fare è che... Sì, vada veloce, l'appunto. Sì, ho ricevuto parecchie critiche, soprattutto in ambito familiare, perché... Ci raggiunga su Facebook, devo sfumarla. Grazie per questa chiusura, grazie a voi che ci avete seguito. A lunedì. Essere e benessere.